Buona serata e benvenuti su Rock FM nello spazio di Hard and Heavy offerto da Mariposa Dischi Corso Lodi, numero 1 qua a Milano, sito internet www.mariposadischi.it. Il saluto dalla voce di Marco Gravelli, il saluto è virtuale, prima o poi lo porterei bene, l'abbiamo già portato a volte in voce con le interviste, cioè il nostro autore Simone, che ha preparato tutta la tracklist, la scaletta di questa sera, che ci permette di partire con il passato. 1982 viene creata questa band dal cantante e dal chitarrista, arrivano dalla Svezia, si chiamano Thrash, nulla a che vedere però con il Thrash, due album alle spalle, e dopo aver completato nell'82 la lineup, arrivano nello stesso anno con il primo vinile, Watch Out, album d'esordio che ebbe un buon successo, tanto che gli valse un contratto con l'Atlantic, che pubblicò il secondo lavoro, Burning Rock, nell'85. Partirono in tour con i Bon Jovi e i Kill. Il terzo album fu messo a loro disposizione per questo lavoro un produttore del calibro di Eddie Kramer, ma durante le registrazioni la band si sciolse, non produsse più niente. I diversi musicisti suonarono con altre band, quali Rain, i Thrash and Passion, mentre il batterista ha lavorato con i Dokken, Glenn Hughes e con John Norum. Dal loro primo album, il brano che dava il titolo allo stesso, cioè Watch Out, Thrash. Watch out! con le note di Watch Out, l'hard rock degli svedesi Trash. Abbiamo aperto dal loro omonimo album, dei due che hanno pubblicato, e abbiamo aperto appunto con Watch Out. Andiamo nel periodo della New Wave, British Heavy Metal, tante band inglesi naturalmente. Oggi parliamo dei Jaguar, che ebbe una buona notorietà in quel periodo. Nati nel 79, prima di arrivare all'esordio passano 3 anni nei quali registrano un demo, partecipano alla competizione Battle of the Band e nell'81 prendono parte alla compilation Heavy Metal Heroes, pubblicano un singolo di cui ho 2 copie io, di quel singolo molto raro, e vendono ben 4.000 copie di quel singolo. A questo punto cambiano però cantante e con l'ingresso di Paul Murrell ed un nuovo singolo intitolato X Crazy escono dall'underground. Arriva l'album d'esordio Power Games, riceve il favore della critica, vanno in tour con i Motorhead e con le Girl School. Ottengono quindi l'importante contratto con la Roadrunner Records, che ne pubblica il secondo album nell'84 intitolato This Time, che vedeva però una svolta musicale a favore di parti più melodiche. Tutto questo non piace ai fan, ma soprattutto a causa di continui cambi di line-up la band si scioglie nell'85. Con la ristampa del loro album di debutto in Giappone nell'88 e visto l'interesse nei loro confronti, si riformano con un nuovo cantante e un nuovo batterista, e dopo alcuni concerti nel 2000 esce il terzo album Wake Me. 2 anni dopo anche il bassista Jeff lascia la band per motivi familiari. Nonostante ciò, nel 2003 esce il loro 4º album, Run Ragged. La band a tutt'oggi esiste, l'unico membro originale è il chitarrista Jerry Peppard. Dal loro primo album, intitolato Power Games, andiamo ad ascoltare la prima canzone che apre la Side B, si intitola Dutch Connection, Jaguar. Drop the money. Dutch Connection, la formazione quella dei Jaguar nel nostro spazio di Hard and Heavy, che inizia come sempre con band hard rock o in questo caso heavy metal dal passato. Abbiamo ascoltato magari i non famosi thrash, ora questi Jaguar che coloro che seguono e amano la new wave o British heavy metal ricorderanno molto bene, altrimenti se non li conoscete questa è l'occasione per trovare, riconoscere nuove band. La prossima invece è molto più recente, l'album è uscito nel mese di marzo, sono i Thunderstorm, band finlandese composta da 5 elementi nati nel 2000 grazie alla chitarrista Nino Loren, che dopo aver militato per diversi anni nella band degli Antidote, con la quale ha inciso alcuni album, e oggi anche un noto produttore nonché proprietario dei famosi Sonic Pump Studios di Helsinki, che vengono utilizzati da numerose band, e appunto il leader fondatore di questi Thunderstorm. Questo nuovo album è il quarto e lo si capisce anche dal titolo, Evolution 4, è arrivato al numero 10 in Finlandia. Successivamente però alla pubblicazione avvenuta nel mese di marzo c'è da segnalare l'allontanamento dal gruppo del cantante tastierista, perché erano un po' scazzati, insomma, motivi personali, dalle scarse motivazioni che hanno dimostrato nell'applicarsi al loro lavoro. I sostituti sono il cantante Tommy Salmela, che aveva già prestato la sua voce in alcuni brani dei Tarot, e soprattutto il bravissimo tastierista svedese degli Stratovarius, Jens Johansson. I Thunderstorm, lo ricordo, suoneranno il 1 novembre con gli ottimi Nocturnal Rides al Music Drome di Milano, ex Transylvania Live. Oggi li ascoltiamo con il singolo da questo album, con il brano che apre l'album, proprio quello che dà il titolo stesso, cioè Evolution 4, sono i Thunderstorm. Delete all obsolete files and viruses. Delete all obsolete files and viruses. Engage Evolution 4.0. Evolution 4.0. Breaking you out, this life is mayhem. Abbiamo ritrovato la formazione dei Thunderstorm dall'album Evolution 4, ora una delle più famose band hard rock europee, arrivano dalla Norvegia, sono i bravissimi TNT, gruppo che ha effettuato il proprio esordio nel 1982 con l'omonimo album, che era però contraddistinto dal cantato in lingua madre, quindi norvegese. Segue un cambio di formazione con l'ingresso di un nuovo bassista e soprattutto del cantante Tony Arnell. Esce così il secondo album Knights of the New Thunder, che li porta al numero 9 nelle classifiche nazionali, quindi in Norvegia, mentre il terzo lavoro, dal quale oggi ascolteremo un brano, Tell No Tales, si rivela il loro primo grande successo, tanto da raggiungere il primo posto in Norvegia. Nel 92, dopo l'uscita del quinto album Realize a Fantasy, il gruppo si scioglie. Si riforma 4 anni dopo, pubblicherà altri 4 album fino al 2005. Lo scorso anno è arrivato l'annuncio ufficiale che il cantante Tony Arnell, dopo 22 anni, ha lasciato la band per motivi personali e il suo posto è stato preso dall'inglese Tony Mills, proveniente dagli Shy. Per quanto riguarda l'album in studio, si intitola quello nuovo, l'ultimo perlomeno, The New Territory, ed è stato pubblicato quest'anno. Come vi dicevo, oggi prendiamo in considerazione Tell No Tales e vi propongo le note di As Far As The Eye Can See, TNT. Tecro alla chitarra, lo ricordiamo, oltre al già citato Tony Arnell nella formazione dei TNT. Ora andiamo alla thrash metal band di San Francisco, nati nell'83 col nome di Legacy, poi cambiato più tardi in Testament. Primissima lineup, c'è da segnalare la presenza del cantante Steve Souza, che presto lasciò la band per unirsi agli Exodus. Viene così reclutato il carismatico cantante Chuck Billy, mentre si sa sia anche un cambio di chitarra con l'ingresso del talentuoso Alex Skolnick, il cui insegnante di chitarra era niente meno che Joe Satriani. A lineup ultimata cambiano il nome appunto nell'attuale Testament, e con questa formazione pubblicano nell'87 l'album d'esordio The Legacy, che gli valse un tour di supporto agli Anthrax e la pubblicazione di un EP live sempre nello stesso anno. I lavori successivi permisero al gruppo di aumentare la propria notorietà e, nonostante il genere proposto, entrarono nelle classifiche americane ed inglesi, ad esempio con l'album Ritual del 92 arrivò al 55° posto in USA e nel 48° in UK. Nonostante ciò, nel 92 cominciarono i numerosi cambi di formazione che porteranno in lineup molti musicisti, tra i quali segnaliamo Steve DiGiorgio al basso, James Murphy alla chitarra, Dave Lombardo, Gene Hoagland, John Tempesta alla batteria. L'ultimo album in studio risale al 2001, si intitola First Strike Still Deadly, mentre l'ultimo lavoro ufficiale è Live in London, un album dal vivo che vedeva la band riunita con la line-up storica con la quale andarono in tour per un certo periodo. Ora, dall'album del 1990, album si intitola Souls of Black, andiamo ad ascoltare il brano che dopo un brevissimo intro di chitarra dà lo start a questo lavoro, cioè Face is the Sky, sono i Testament. Abbiamo ritrovato e ascoltato un estratto da questo loro album Souls of Black, che erano i Testament. Andiamo a chiudere la prima parte dell'appuntamento di questa sera di Hard and Heavy con i Jaded Heart, quindi novità questa volta. A 2 anni dal precedente album esce l'8º lavoro in studio dal titolo Sinister Mind per la melodic hard rock band tedesca dei Jaded Heart, composta da 5 elementi. Sono nati nel lontano 1990. L'album nuovo si compone di 12 tracce ben prodotte e mixate da esperti del genere quali Michael Foss dei Casanova, Chris Luseman dei ex Bonfire, che aveva già lavorato nel precedente album, e il sempre più richiesto Dennis Ward dei Pink Cream 69, che ha lavorato tra gli altri con gli Angra e Silent Force. Li andiamo ad ascoltare appunto da Sinister Mind, album pubblicato dalla nostrana Frontiers Record, col brano Always on Mind. l'apertura della seconda parte del nostro spazio per questa sera di Hard and Heavy con questa interessante band per noi nuova. È la prima volta che l'ascoltiamo. Hanno inciso un EP e un primo album, questo è il secondo. Loro si chiamano Icarus Witch, l'album si intitola Songs for the Lost, il brano era Out for Blood, il motivo che apre questo lavoro pubblicato in Europa in questo periodo dall'etichetta italiana di Roma Cruz del Sur. Sono 10 le tracce, vi è anche la cover di Mirror Mirror dei Def Leppard, dove compare come special guest Jolie Turner. Come il precedente primo album è stato prodotto da Eric Klinger dei Propane, che in questo lavoro si occupa anche di suonare la batteria. L'etichetta che li ha scoperti era la Magic Records. Loro hanno partecipato all'inizio a un tributo ai Black Sabbath, poi hanno registrato un demo e appunto questa etichetta Magic Records li ha messi sotto contratto e hanno pubblicato un EP e il primo album, che si intitolava Capture the Magic. Passiamo invece ora ad una band molto famosa, molto nota anche da noi, si parla dei Saxon e di un singolo particolare, si intitola I Got to Rock to Stay Alive. Questo singolo, la cui versione originale si trova nell'ultimo album in studio di Inner Sanctum, è stato riregistrato con alla presenza, oltre naturalmente ai Saxon, alla voce di Lemmy dei Motorhead, Angry Anderson dei Rose Tattoo e Andy Darris degli Helloween. Se avete seguito l'intervista degli Helloween che abbiamo mandato in onda venerdì, proprio Andy ci ha parlato di questo singolo. Per questa canzone è stato registrato anche un video che sarà incluso nell'imminente DVD della band inglese. Il titolo di questo doppio DVD sarà To Hell and Back Again e verrà pubblicato il 19 novembre. Allora, l'ascoltiamo. I've Got to Rock to Stay Alive, Saxon. To Rock to Stay Alive, Saxon featuring Lemmy, Angry Anderson e Andy Darris, tutti insieme in questo singolo che sarà inserito, abbiamo detto, nel DVD nuovo dei Saxon e probabilmente anche reso disponibile in download. Arriviamo anche per questa sera al consueto appuntamento con le news. Si parte con i Children of Bodom. Hanno annunciato che il prossimo album uscirà il 7 di aprile, naturalmente del 2008, anticipato da un singolo il 3 di marzo. Il leader cantante e chitarrista Lilo ha definito le nuove tracce più veloci e verso il thrash e anche leggermente più progressive rispetto al passato. La band che vede Ronnie James Dio alla voce, Tony Iommi o Iommi meglio dire alla chitarra, Geezer Butler al basso, Vinnie Appice alla batteria, quindi Yevhen and El, hanno reso noto l'intenzione di pubblicare un nuovo album in studio per il prossimo anno. La band tedesca degli Eden Bridge invece pubblicherà il prossimo lavoro dal titolo My Earth Dream. Sarà pubblicato nel mese di aprile dalla Napalm Records. L'album si preannuncia come il più pesante e sinfonico della loro discografia, con l'utilizzo di una chitarra a 7 corde, oltre ad un'orchestra composta da musicisti dell'Orchestra Filarmonica di Praga. I Bullet for Valentine pubblicheranno l'anno prossimo, con la produzione di Colin Richardson, che ha lavorato già con Fear Factory e Machine Head, il loro nuovo album Scream, Aim and Fire. Ci sono 11 brani, viene descritto come un heavy metal abbastanza melodico. Dimmu Borgir, anche loro pubblicheranno un DVD dal vivo. La data che registreranno sarà quella del concerto che si terrà ad Oslo il 6 di novembre. Parliamo ora dei Tarot, heavy metal band finlandese del bassista-cantante Marco Jietala, che milita anche nei Nightwish, del fratello Zachary. Ha intenzione anche loro di pubblicare un DVD live la prossima primavera, tra aprile e maggio. Il concerto registrato è quello che hanno tenuto lo scorso 17 aprile in Finlandia. Oltre ai Tarot suoneranno 2 concerti di spalla ai Nightwish, così Jietala suonerà ben 2 concerti in un'unica sera. Ma non è l'unico, sono cose già viste e riviste. Parliamo dei Camelot. Arriveranno anche in Italia per la seconda parte del loro tour, Ghost Opera Tour, esattamente all'Alcatraz di Milano il 13 aprile del 2008. Come special guest ci saranno i greci Firewind e una band austriaca che voglio parlarvi e ripresentarvi, cioè i Visions of Atlantis. Si tratta di una symphonic metal band al sound influenzato soprattutto dai Nightwish. Il loro terzo album, Trinity, era uscito e l'abbiamo presentato a fine maggio. Il gruppo è composto da 6 elementi, dal doppio cantato maschile e femminile. Rispetto al precedente lavoro, da segnalare 2 cambi in formazione: la sostituzione del chitarrista e soprattutto della cantante, con una nuova voce femminile, appunto, l'americana Melissa. Un bel album per chi ama queste sonorità. Ripeto, si chiamano Visions of Atlantis, li ascoltiamo con The Secret. tagli austriaci con cantante americana Vision of Atlantis. Abbiamo proposto le note di questa canzone intitolata The Secret, l'album si intitola Trinity. Passiamo ora agli Astral Doors, una band che con questo album arriva al quarto, si intitola New Revelation, sono svedesi. Il loro heavy metal è un heavy metal molto stile anni 80. Questo lavoro è uscito su etichetta Locomotive Records, etichetta di Madrid, presenta 11 brani e ricordo che gli Astral Doors suoneranno insieme agli italiani Secret Sphere il 1° novembre al Black Horse di Cermenate, provincia di Como. Li ascoltiamo con Freedom War. Voce non c'è Ronnie James Dio, ma la timbrica di questo cantante, cioè Patrick Johansson, è proprio Ronnie Dio sputato. Astral Doors con Freedom War dal nuovissimo New Revelation. Andiamo in Italia con il nuovo album dei Necrodeath, uscito per etichetta Scarlet Records, intitola Draculea. Il gruppo che, ricordo, è attivo dal 1984, quando fu formato dal batterista Peso, che saluto, e dal chitarrista Claudio, a cui si aggiunsero poi il cantante Ingo e il bassista Paolo. Dopo un demo dal titolo The Shining Pentagram, arrivarono al primo album Into the Macabre del 1987. Nell'89 la band si scioglie per riformarsi dopo 10 anni con 2 nuovi ingressi, Flejas alla voce, che è anche il batterista dei Cadaveria, e il nuovo bassista John, anche gli nei Cadaveria. Questo nuovo album è un concept, si divide in 7 tracce più un intro e un outro, il tutto registrato presso gli Outer Studios di Roma, masterizzato in Svezia. Nella line-up sull'album le parti di chitarra sono state suonate da Pier Gonella dei Labyrinth, mentre recente è l'ingresso in pianta stabile del nuovo chitarrista Max con la doppia X. Il pezzo che vi presento, del quale è stato realizzato anche il video, si intitola Smell of Blood, Necrodeath. Con Smell of Blood andiamo agli ultimi istanti, il tempo è veramente tiranno con noi, sono di corsissima. Ringrazio Simone quindi per le scalette e le news di quest'oggi, il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi al numero 1 qua a Milano. Voi per avermi seguito, vi rimando all'appuntamento di domani sera ancora con Marco Gravelli qua su Rock FM con Arden Devi, e vi lascio con Dreambound dal nuovo album Gambling with the Devil, presentato insieme alla band degli Halloween lo scorso venerdì qua con noi. Un grazie a voi, ricordo che poi verranno a suonare dal vivo con i Gamma Ray e gli Axis il 27 e il 28 di novembre, rispettivamente a Roma e a Milano. A domani sera, ciao ciao!